Night Train. Buonasera a tutti quanti i nostri radioascoltatori. Come al solito Mozilla Bros su Radio Girama 105.7, con il solito classico ritardo dei nostri 20 minuti blues accademici. Siamo ritornati in trasmissione dopo una settimana a Radio Girama. Siamo una formazione un po' strana, perché manca un po' di gente, strana. Però diciamo che sopperiremo, vero Cicillo? Tra x uguale a 0 minuti di Mozilla Bros. Quindi i messaggi che avevate mandato all'inizio sono terminati. Sono fallaci e terminati. Dai, abbiamo cominciato questa trasmissione con un po' di fretta, perché dopo avremo un appuntamento per Verde Binario, come ci spiegherete magari voi nerd dopo. Sì. E meno male che eravamo di fretta, vorrei dire. Sì, vabbè. Vi presento questa formazione un po' particolare. Dal lato nerd della regia ci sono i nostri Cicillo. Salve. E Ono Sendai. Manca Gesù. C'è Gesù? C'è Gesù. Manca il nostro Garulf Pecuriello. Non so perché non c'è Natale, non si mangia. Causa di studi umanistici. Umanistici anatomici. Ah, ok. Okay. E poi invece qua al lato blues della situazione abbiamo i Petrona Boys. Magari si salutate. Sì, cioè, un po' di educazione. Aperitaviti. Sono Paolo e Stefano. Aperiti. E poi il vostro Lorenzo Blues della situazione. Beh, io direi di cominciare proprio con il primo pezzo, che è un pezzo dedicato, chiestoci prima di cominciare questa trasmissione, da dei nostri amici dell'università. Sono Michele e Pietro, che salutiamo. Into 80? Into 80? Sì, proprio Into 80H del Ciotoflow. Ciao Into 80. Speriamo che ci stanno sentendo, perché hanno detto che alle 7:30 ci avrebbero sentiti. Questo è Mississippi John Hart con... come si chiama la canzone? Ma Creole Bell. My Creole Bell. La mia bella creola, diciamo. Che pronuncia tu? Yeah. My Creole Belle, I love her well. My darling baby, my Creole Belle. My Creole Belle, I love her well. My darling baby, my Creole Belle. My Creole Belle, I love a well, I love a mole. Anyone can tell when stars shine, I'll call her mine, my darling baby, my Creole Belle. Bell, I love her well, I love her more. Anyone can tell when the stars shine, I'll call her mine, my darling, my Creole Bell. E rieccoci in onda. Nonostante, diciamo, il timer mi segnasse questa canzone dura 6 minuti, è finita a 3 minuti. Cioè, mi ha lasciato completamente. Infatti, qualcosa deve essere andato storto. E io guardo, sto guardando male. E voi lo potete notare benissimo. Il nostro Stefano Blues. No, Stefano no. Fail. Stefano Fail Blues. Perché allora, io volevo... il compito di scaricare le canzoni è loro. Adesso sì. Se hanno scaricato una canzone da 3 minuti. Io volevo scaricare quella da 3 minuti. Mi dicono, no, vedi che non è questa, è quella da 6 minuti. Ma sta continuando a suonare qualcosa. Ah. Cioè, ma è strano perché, cioè, dopo l'applauso di solito la canzone... finisce. Sì, perché questa canzone ha scaricato la versione live. Questa, diciamo, è una traccia nascosta. Ah, bello. No, no, è una live. Un inedito. Ma è Jesus Bell. Ma è Jesus Bell. Beh, cominciamo a parlare di questo Mississippi John Hart. Questo qua era un bluesman del vecchio blues. Come direbbero certi che qui mancano. Certi 4000. Sì, sì, certi 4000 che qui latitano. Che stiamo ancora attendendo, tra l'altro. Ma io sento puzza di PDG. Verrà, verrà. È in odore di PDG. È in odore. Comunque farei anche una breve, ricordando quello che diciamo noi. Siamo i Mozilla Bros, passiamo musica blues, pezzacci blues come quello che avete potuto ascoltare adesso. Scaricati male, però sì, li passiamo. Però sono pezzacci. E parliamo di cose nerd. Se ne occupa il parlate nerd. Male. Parlate male. Parlate voi. Quindi il complimento arriva a voi. Ma parliamo bene invece di Mississippi John Hart. Un tizio, sì, del vecchio blues. Vecchio blues, ma proprio vecchio, vecchio. Infatti è nato nel 93. Cioè, sì. 1893. Nel 93. Diciamo, capì? Uno al momento ha 18 anni. Può pensare. Il vecchio blues. Può pensare che abbia 19 anni. In realtà è del 1893. Cioè, roba del secolo scorso. È uno che si è fatto... Che volevi dire? Cioè, la faccio proprio birichina. Cercavo di dire qualche stronzata. Vai, ma vai, non dilla, dilla. Tipo, se li porta bene o... Sì, se li porta molto bene. Perché se li porta nella tomba, dato che nel 66 ci ha lasciato. Cosa ci potete dire dello stile di questo bluesman, ragazzi? Diciamo... Voi che siete i nostri chitarristi barra sponsor. È caratterizzato dal classico finger picking. Delta, quindi Delta, delta molto chi delta. Ci ascolterà può capire da quello che ha detto Stefano. Finger picking è una parola chiave del Delta Blues. Sì, cioè, ovvero suonare suonare la chitarra, gli accordi, sì, prendendoli con le dita. Esatto, esatto. Poi senza plettro, senza le dita. Con le dita. Mi raccomando, non provate a prenderli con qualcos'altro. Don't try this at home. Che non ci riuscivo. Soprattutto siete Lorenzo. Comunque è un grande cantautore. Tu muori. È un grande cantautore e bisogna dire che nasce, vabbè, in Mississippi e muore nel Mississippi, quindi resta legato alla sua terra. Diciamo che... E gli dà anche questo nickname. Capito? John Hart, detto Mississippi, quindi, cioè, forse gli ha dato lui il nome alla terra. È al fiume. Non si sa chi sia cronologicamente precedente, se è lo stato, cioè il fiume oppure egli. Comunque sia, è uno dei pochi bluesman che è andato all'università. Leggo. Non lo so. Va bene, questo non è vero perché i bluesmen non vanno all'università. Suona il citofono. È un bluesman atipico, magari. Sì, vabbè, era un grandissimo chitarrista, come avete potuto ascoltare. I suoi generi principali, oltre al Delta Blues, che poi comunque è una derivazione di quella che era la musica del tempo, è nato forse suonando canzoni folk, le canzoni che erano nei campi di cotone, di tabacco dell'epoca, vero? Esatto, esatto. Cioè, perché lui comunque lavorava come sharecropper, che non riesco a tradurre per il momento. Cosa? Un cosa? Strano. Sharecropper. Sharecropper. Era un... Comunque sì, era un fattore. No, un coltivatore, sì. Un coltivatore. È arrivato, è arrivato. Studio a chi? Studio a chi? Qua? Umanistico parole. Umanistico. Non ci allarghiamo, eh? Ma sono loro che hanno detto studio umanistici. Anzi, il tuo omonimo, nonché nerd personale, ha detto umanistico. Alle fonti queste. Ma invece è arrivato qui con un pacco di taralli e forse birre. Si sente un rumorino, sì, diciamo. Sì, sì, portati cavo. Comunque, stavo parlando di Mississippi. Non Giornale. Sono campane. Oltre al blues e al folk, questo chitarrista aveva uno stile molto originale nel fare musica ragtime, che Paolo conosce molto bene, essendo un appassionato di musica jazz, vero? Eh beh, sì, giustamente. Vabbè, ma penso che la conosciamo un po' tutti qui. Sì, sì, vabbè, chiaramente... Il nome di Scott Joplin dovrebbe svegliare, suonare. Dovrebbe risuonare nelle vostre teste, ascoltatori. Diciamo che purtroppo la storia di questo bluesman è un po' strana, perché comunque il suo nome venne dimenticato negli anni proprio dell'esplosione del blues. Venne dimenticato e poi ripreso negli anni 60 grazie a Tom Hoskins, uno che studiava la musica e quindi ha contribuito a rivalutarne la... Che cazzo state facendo? Tanti auguri a te, tanti auguri a Ono. Sì, dovete la cannuccia. Dovete sapere che mentre noi parliamo di Mississippi John Hart, là festeggiano il compleanno di Ono Sendai, perché oggi è il compleanno. Se volete chiamare in diretta per fargli gli auguri, vi ricordiamo il nostro numero di telefono, che è 0984 28 250. Quale 3? Vabbè, ma la festa è domani in P2. Venite tutti. Sì, e ricordiamo pure la festa dei nostri nerd in P2. Diciamo che dopo questo ritorniamo a Mississippi John Hart. Dopo aver ascoltato le sue registrazioni, che erano molto antiche, diciamo, risalevano ai primi del Novecento, soprattutto il testo di Avalon Blues, un pezzo del nostro chitarrista, questo Hoskins ha deciso di andare a trovare Mississippi John Hart nel 1963 ad Avalon, nel Mississippi. Diciamo che insomma, penso che l'incontro tra questo bluesman e il musicologo della situazione sia stato un attimino incerto. Strano. Perché dovete sapere che nel Mississippi i bianchi e i neri erano divisi, erano separati, non è come oggi che magari convivono. Perlomeno un po' di apertura mentale. Esatto, non esisteva all'epoca. Non c'erano proprio... cioè c'erano grosse distinzioni, c'erano i locali per neri e i locali per bianchi. E questo Tom Hoskins, pensando che addirittura la canzone fosse dedicata alla leggendaria Avalon, la città natale. No, la leggendaria Natale. Avalon, quella dei tempi del Medioevo, dell'Inghilterra, no? Tipo Camelot, Avalon, queste storie di Re Artù e la Tavola Rotonda. Praticamente, pensando che fosse fantascientifica, sì, fantastica, si ritrovò davanti a una canzone che parlava della terra natale di questo bluesman. Certo. E poi, insomma, lo fece rivalutare. Ha fatto suonare a Washington. Ha fatto suonare in molti posti. Sì, sì, pure al Newport Folk Festival nel 64. Festival nel quale ricoprì un ruolo molto fondamentale, forse una delle attrazioni principali. E poi un paio d'anni dopo ci lasciò. Niente, questa è la breve storia di Mississippi John Hart. Presto vi faremo ascoltare altri pezzacci, perché comunque merita. È un grandissimo bluesman e soprattutto va ascoltato e i pezzi che si trovano sono molto pochi. È difficile trovare pezzi decenti, una qualità decente. Comunque ci riusciremo. E vi spoiler un'altra cosa: avremo un altro bluesman leggendario del vecchio blues insieme a Mississippi John Hart, che però sarà tipo la sesta traccia della nostra scaletta. Detto ciò, io direi che si può passare al prossimo pezzo. Che se non sbaglio è quello di Crostino da questa parte. Rory Gallagher. Questo pezzo è un pezzaccio dedicato al nostro bluesman a Natale. Questo è un pezzaccio che ci ha proposto Stefano Blues. Beh, mea culpa. Il quale mi è stato proposto dalla mia ragazza, tra l'altro. Quindi io non c'entro niente. Sì, che salutiamo. Ma vediamo come è scaricato questo. Speriamo che sia scaricato bene. Vi lasciamo a Rory Gallagher. Questo è un Mozilla Bros 105.7 Ciroma. Ciao. Farina di tipo 00. Olio di salsa d'oliva. Passali di qua. Olio extravergine oliva. Vino lievito peperoncino 0,6%. Prodotto e confezionato in barletta contrada crocifisso numero 3. Passali di qua. Stiamo mangiando da Ralli. Ti ha portato Garolf. Invece di lavorare e parlare di questo grandissimo bluesman irlandese. Anche se diciamo che la palla doveva balzare dai nerd. Ma stanno mangiando anche loro, quindi. No, no, rimbalza. Infatti, tipo l'altro giorno Cicillo ha postato in mailing list questo bellissimo articolo dove si parla di un'iniziativa di Parrot Bay. Praticamente un'iniziativa che è stata lanciata a gennaio e si chiama The Promo Bay. Allora, basta mangiare. Premettiamo che io ho postato in mailing list questa cosa senza averla letta. Il titolo mi piaceva e quindi ho pensato. No, scherzi a parte. Si tratta in sostanza di un'idea di. Scherzi a parte, solitamente tu fai così. Vedi il titolo che ti piace e tipo. No, no, vabbè, dico scherzi a parte in censura, questo censura, caso, censura, censura, censura, né censura. Non posso dire certo come la sto leggendo adesso la notizia, se no facciamo una brutta figura. Chiaramente no. Non scrollare, per favore. Però lo stai facendo adesso. Si tratta di un'iniziativa dei simpatici compari di Pirate Bay che hanno pensato di mettere a disposizione degli artisti questa piattaforma sulla quale appunto gli artisti che decidono di iscriversi possono pubblicizzare quella che è la propria musica in maniera assolutamente gratuita. Infatti sì, perché uno dei maggiori problemi soprattutto dei gruppi emergenti non è tipo se comprarsi lo yacht di 6.000 metri quadri o l'elicottero a pale eoliche, ma bensì appunto avere visibilità. E infatti sono 448 sono arrivati ben a 5.000 contatti, superando addirittura Angle che stiamo aspettando. Credi, Angle è Natale. Praticamente ben 5.000 artisti hanno offerto la loro musica, cioè è possibile scaricarla a titolo gratuito, e Parrot Bay si impegna a... Scusate un attimo, si può dire molto fondamentale. Ma che cazzo stai dicendo? Si può dire molto fondamentale. Ma è un dubbio che ti è venuto, mo? No, mi hanno scritto che non si può dire molto fondamentale. Come cazzo e quindi parli? Hai ben pensato, perché non condividere in radio? Certo. Forse è meglio decisamente fondamentale. Però si può dire molto fondamentale. Piuttostamente. Okay. Io voto questo. Analmente fondamentale. Perfetto. Praticamente fondamentale. Più di 5.000 artisti hanno permesso agli utenti di tutto il mondo di scaricare gratuitamente la propria musica. Pirate Bay appunto gli farà enorme cassa di risonanza. Questo appunto dovrebbe far riflettere ormai sull'inutilità degli intermediari musicali, chiamiamoli così, tipo le major o le case discografiche, vero Cicci? Sì, sicuramente, ricordiamo che esistono comunque altre piattaforme tipo Yamendo eccetera eccetera che offrono la possibilità. Yakite! Yamendo! Yamendo che appunto abbiamo anche passato musica da Yamendo, l'abbiamo detto, l'abbiamo specificato. Proprio perché appunto c'è la possibilità che gli artisti rilasciano la propria musica secondo quelle che sono licenze tipo Creative Commons o cose simili applicate alla musica. Ma in questo caso sicuramente la cosa fa scalpore, perché si passa alla vista del grande pubblico dall'illegalità completa, che è quella di rappresentata dai malvagi pirati della baia, a quella che è invece un'opportunità che viene data ai giovani artisti e ai giovani musicisti, che in questo modo possono pubblicizzarsi in maniera del tutto gratuita. Bravi. Non si capisce ancora bene la forma poi successiva di, come dire, il dot des che ci sarà dietro. Non si capisce se ci sarà una piccola quota che gli artisti pagheranno a sostegno del progetto. Ma in ogni caso comunque l'idea è abbastanza provocatoria. Quindi, sicuramente, proprio perché va a scardinare quelli. Sì. Perché va a scardinare quelli che sono i criteri con cui le case discografiche, eccetera, eccetera, distribuiscono la musica. Ricordiamo che per esempio ci sono gruppi tipo gli Psy Brazil, se non sbaglio, che fanno musica elettronica, che appunto in Brasile sono delle grandissime celebrità. Loro addirittura danno i loro CD direttamente sulle bancarelle per farli vendere a pochi euro. Gratis, pure scaricabili. Esatto, o scaricabili. Ricordo un bellissimo CD che mi hai passato proprio tu, cioè dicendomi che questi qua condividevano la, esatto, la musica. E penso che addirittura hanno fatto talmente tanti soldi, perché per lo più gli artisti li fanno attraverso i concerti, che hanno rifiutato un accordo con la Sony, niente poco di meno. Non perché per scrupoli etici o altro, forse anche per questo, però a detta loro perché effettivamente non gli conveniva da un punto di vista economico. Sì, sicuramente, questo è l'ennesimo esempio che, diciamo, la libertà digitale porta in ogni caso quelli che sono vantaggi anche per gli artisti stessi. E diciamo che oltretutto questo progetto è tra virgolette sponsorizzato, o meglio, sono espressi a favore personaggi del calibro di Gino Paoli, di Vecchioni. Esatto, mi pare di averlo letto sulla mail. È scritto così, sì, tutti sì, schierati sì, a favore della libera circolazione dei contenuti sulla web. Comunque, per ritornare, per ritornare, attenzione, ho letto una cappellata. Perché ho letto una cappellata. Sei un pollo. Proprio il contrario. Sei proprio un pollo. Però potevamo, diciamo, fare un pochino sei un pollo. Puoi passare un po' il sottofondo? Vabbè, ci sta. I love you. Mi chiedo scusa a me stesso per quello che ho fatto adesso, insomma. Gino Paoli, ti perdoni. La gatta. Sì, no, non so più leggere. No, per ricordare, gli Psy Brazil, c'ho proprio qui la cartella con l'album e c'è un file che si chiama License.txt e c'è la serie delle tracce e poi il link, il license URL che passa, che ti rimanda, sì, come rimanda alla Creative Commons. Sì, così come nei software viene sempre legato, diciamo, il file GPL, con la licenza, sì, assolutamente, esatto, in questo fantastico, caso. È una cosa fantastica. Musica gratis. Sì, vabbè, ho detto una cappellata, nel senso che Gino Paoli e company sono a favore della libertà di circolazione delle informazioni, ma no, in realtà, per quanto riguarda la musica, perché altrimenti non camperebbero più. Si tengono i loro bei profitti. Tant'è vero che hanno partecipato a quello squallidissimo spot della Fimi. Ma è a chi cacata ma è una bombico allucinante, proprio dice tante quelle stronzate che ne abbiamo parlato l'altra volta. E magari dopo il prossimo pezzo vi diremo anche cosa hanno pensato gli Anonymous di fare a riguardo. Dopo il prossimo pezzo punto next. Diciamo. Prossimo. Sì, perché poi rimanete con noi se volete, sì, come andrà a finire. Esatto. Iterator pezzo. Questo è il new iterator. È il pezzo di un tizio che non vi immaginate mai. Perché? Gesù? Perché no, perché non è un tizio che solitamente si sa Giovanni far musica. Battista. Gesù. Se mi passi quello che hai spostato prima, esatto, la gente saprà. Dopo, magari. Restate con noi. Adesso Gesù. Dr. Blues. This say the whale swallowed Jonah out in the deep blue sea. Sometimes I get that feeling, same old whale has swallowed me. Sunrise in the east goes down in the west. Sometimes I get that feeling every creature needs some rest. The whale got sick, that's why I have this blues. I do believe one day he will finally turn me loose. Questo era Dr. Blues. Era proprio Dr. Blues. Credo proprio, sono pronto a scommettere che non l'abbiate riconosciuto dalla voce. Sì, perché anche, chiaramente anche è doppiato in italiano. Perché è doppiato in italiano. A meno che non avete guardato le puntate in inglese sottotitolate. In inglese, esatto. Questo era... Secondo me Cicillo non lo sa. No. No, stavo pensando che non sentivo niente in cuffie. Ma oggi sono praticamente rincoglionito. Ma perché ti sei fregato una bottiglia di whisky? No, sarà poi il fatto... No, sarà che mi sono fregato una bottiglia di whisky. Ho abbassato il volume. Un litro di whisky cosa sarà mai? La lucidità è quella. Però mettilo in sottofondo. C'è il sottofondo? Diciamo di no. Ok, adesso sì, stava finendo la canzone. Ah, Will of Sicilia, la transizione. Allora, va bene, adesso questo qui era Hugh Laurie. Hugh Laurie. Sì, vabbè, Hugh. Da non confondersi con Hugh Ale a Cosenza, fa famosissimo. Il famigerato, diciamo, Hugh Ale. Il leggendario Hugh. Il leggendario. Per i pochi di voi che non sanno chi è Hugh Laurie, andate a fare una vita. No, a farvi no, una vita. No, è il tizio che faceva il dottor House, ossia il dottor Casa, nelle puntate di House, di dottor Casa. Esatto. Era Casa, il dottore che è quello sgorbutico qua. E in realtà è anche un grandissimo bluesman. Cioè, questo qua è un pezzaccio del nostro mancante Andrea Blues, che ci ha portato da un album pieno di bellissimi pezzi. Infatti spero ne proporremo uno a puntata da qui in avanti. Ma sì, si può. Perché fare, comunque, no, come avete sentito, è un ottimo pezzo. Lui, oltre a Cicci, fare... mai peditato? No. Che puzza di merda, però. Siete degli animali. Degli animali da rinchiudere. Sono pieni di cultura i loro interventi. Di culto. Culto. Di cultura. Questo tizio che fa l'attore fa in realtà anche il suonatore, diciamo, il musicante. Vabbè, fa un po' di tutto comunque. Fa lo scrittore, il regista, l'attore, vabbè, il suonatore. Regista diciamo che ha girato un episodio di Dr. House, quindi non direi regista. Cioè tu lo sai fare? Sì. E allora sotto gita, non ho capito. E niente. Insomma, questo tizio suona e suona pure parecchio, perché suona il piano, la chitarra, la batteria, l'armonica e il sassofono. Cioè, e chi cazzo? Fanno per la serie, chi non vorrebbe essere Hugh Glory? Esatto. Io per esempio. No, compa, c'è un sacco di soldi. Non per fargli disadattato. Non per fargli i conti in tasca, ma è un disadattato, perché comunque fa, cioè, soffre di sindrome ossessivo compulsiva. Ah. No, non era per questo, è proprio un disadattato. No, ma è un grande, comunque è un grande, perché suona tutti questi strumenti e li suona pure bene. Infatti si vede in alcune puntate di Dottor Casa, Dottor House, la sua che passione musicale. Esatto, si vede. Io qualcuno l'ho visto. Devo dire, non è male come. No, come, io. Cioè, devo dire che Dottor House lo seguivo. Era abbastanza interessante. Come, sì, è carino come telefilm. Però c'erano delle sessioni in cui. Beh, Cristo! la birra sulla tastiera. Scusateci, in diretta. Questa volta in diretta. Sai perché? Se tieni un sacco di bottiglie di birra vicino al mixer, forse poi qualcosa può andare male. E qui arriverà la telefonata di Ciroma. Sei proprio un mentecatto. Meglio non dirle queste cose in diretta. Via. Esatto. Sì. Trovate dei fazzoletti oppure usate le vostre felpe per pulire. No, ma non abbiamo un fazzoletto, non ci. Anche con la barba, prova. Cicci. No, con la kefia. E sì che me la bevo e basta. Tipo Barney quando fa prezioso alcol. Iettatemele direttamente nelle. Ma poi io stavo parlando seriamente di Hugh Glory. Che suona tante cose. Suona questo cose. Dovrebbe far riflettere molte persone. Smettiamolo. Suona, come stiamo dicendo, fa vedere il suo talento musicale negli episodi di Dr. House, quando suona il piano oppure la chitarra. Suona l'organo Hammond in una puntata. Sì, suona l'organo Hammond e possiede un organo Hammond. Un organo Hammond molto particolare, il B3, che è stato prodotto in una serie limitata di anni, ossia dal 56 55 al 74. Un ventennio di Hammond. Particolare, quindi ora fuori produzione. Quindi lui è uno dei, nonostante sia straricco, ha un sacco di figa a destra e a sinistra, sì, un sacco di cose. Fa blues. Fa blues. C'è pure un B3 rarissimo. No, no, io dico, nonostante tutte queste cose, fa blues. Quindi vuol dire che l'animo della persona è veramente. Sì, esatto. Dovrebbe far riflettere, perché non solo i poveracci straccioni oggi fanno blues, anche i ricconi. Non solo quelli che coltivano cotone. Alla fine, questo ci può far riflettere sul fatto che i soldi sono un. Smettetela, per favore. Smettetela, perché lanciano fazzoletti imbevuti di birra oltre il vetro. Non so quanto possano essere ubriachi. Oltre non là lo dietro. So. Sì, perché c'è una pracchia. Sì, ma oltre. Insomma, praticamente vuol dire, se uno è veramente un figo, ovvero segue quello che sono i suoi canoni, anche se è straricco, ciò non cambia se stesso. Un po' come quello che diceva Gesù. Cosa? Simile, simile. Cosa diceva Gesù? Quella cosa che ha detto lui prima. Ok. Diciamo che pure nell'ultimo anno è stato intervistato da molte persone per via di questa sua passione musicale, e ha spiegato perché gli piaceva la musica del New Orleans, quindi il blues. E ha pubblicato pure un album che si chiama Let Them Talk. Cioè lasciateli parlare. È bellissimo. Saremo diciamo, propensi. Propensi, sì. La volontà di passare questi pezzi di Hugh Glory, perché comunque c'è un bel blues. Un bel blues. Sì, è un disadattato comunque, perché soffre di sindrome ossessivo compulsiva. Quindi senza averlo letto lo sapevo. Il cazzo, senza averlo letto. C'è già la Hugh Glory, no? Sì, sì, sì. Ormai Cicillo non sa leggere, ma è diventato telepatico. Esatto. E direi che possiamo passare al prossimo pezzo, perché di Dottor Casa abbiamo parlato pure abbastanza. Ah, che dite voi? Ma sono blues sottofondo. Yeah, chi te ho? E a un tocchi sottofondo. Vabbè, passiamo al prossimo. Prossimo è Leonard Cohen. Questo è un altro pezzaccio di Andrea Blues che non si è manifestato oggi e sarà caniato per tutto il resto della sua vita da tutti noi. Dai, sei. Poverino, avrà avuto i suoi contatti. Il cazzo. Si sa che i contatti sono assillati. Guarda come è dispiaciuto. C'è questa cosa di amore e odio. Sì, sì, io sono dispiaciuto per questa. Perché deve morire Andrea Blues. Se ci sta sentendo deve morire due volte. Se non ci, non ci sta sentendo tre volte e ci sentirà in podcast quindi quattro volte. Si è perso il whisky, si è perso la birra, insomma si è perso il compleanno di Ono, si è perso i rutti di Cicillo in diretta e si è perso anche il prossimo pezzo che è di Leonard Cohen. Ci pervengono anche il tramite il vetro. Sì, è arrivata la ventata. Ma lui se lo ascolterà in macchina schiaffando la faccia nostra. Sei un animale, sei proprio un animale. E questo è Darkness di Leonard Cohen. Per favore, Mascio, passalo. Dei cani malati. I nerd sono cani malati. Vabbè. Attenzione, c'è stato uno scoop. Leonard Cohen ha deflorato Janis Joplin. Attenzione, attenzione. Incredibile, è una delle poche errata persone... Errata corrige. Sapevo dei facili costumi di Janis Joplin. Deflorato. Ah, ok. Implica qualcosa di fisico, cosa significa? Sì, molto fisico. Gliel'ha ficcata, a Genesis Joplin. Che volgarità. Beato lui. Got it worse than you. Thank you. Wagno, questo qua era Leonard Cohen con Darkness, dall'album Darkness. Era un pezzaccio. Darknet. Cantautore, sì. Musicista, poeta, scrittore. Da poco dark. Ha fatto di tutto. Questo tizio, siccome abbiamo pochissimo tempo, ho detto che tocca ai nerd. Questo è il cantante che arriva. Ci siamo venuti a cacciare. No, è il cantante. Sì, il cantante. Sì, sicuramente. Abbiamo poco tempo perché tocca ai nerd. Sì. Due cose velocissime. Dobbiamo dire due cose velocissime. Oltre, primo, che si è scopato Janis Joplin. Primo, si è scopato Janis Joplin. No, vabbè, si oltre quello. Ha deflorato, dai. Vabbè, ok, dai. Poi tolti i fiori. Era un tizio che scriveva nelle canzoni, parlava di sesso, amore e religione. E religione. Cioè, a volte anche politica, diciamocelo. E sti cazzi. E sti cazzi, sì, pure. Poi era un monaco buddista, diventato nel 96. È stato insignito dell'ord, cioè, come cacchio si chiama? Della carica di monaco buddista nel 96. È stato descritto tutto, no? Da Lou Reed, quindi non il primo degli arrivati. L'ultimo degli stronzi. No, non l'ultimo. Non l'ultimo degli stronzi. Tu sei l'ultimo degli stronzi. Sei l'ultimo, no, tu sei l'ultimo dei loffi. Vabbè. Oh, anche Lou Reed ha fatto le sue belle cagate. Vedi l'ultimo album dei Metallica. Sì, ma chiudiamo la parentesi. Uno dei più dei più influenzanti scrittori di canzoni. Cioè, un tizio veramente niente male. D'altronde ha fatto anche una canzone che noi conosciamo molto bene, che si chiama Alleluia. Alleluia. Ed è stata famosizzata da coverata Jeff Buckley. E famosizzata da sì, perché è diventata famosa con Jeff Buckley, uno che abbiamo già passato e che ripasseremo ancora. Nel 68 ha anche rifiutato una carica onorifica per le sue poesie, l'ha rifiutato. Vabbè, cioè, ma sì, che cazzo me ne fa? È arrivato il cantante. Capito che forse è un po'. Vabbè, tocca a voi adesso, dai. A noi? Sì, che diciamo? Sì. Non lo so. C'è uno Sendai che smania dalla voce. Cosa vuoi di parlare? Che ti diciamo? Anonymous. Sì, Anonymous. Ah, è vero, stavamo parlando di. Sì, Fimi, pirateria. Per dire che noi siamo comunque. Prepariamo la trasmissione, no? Quindi sappiamo. Siamo comunque. Prepariamo la trasmissione, quindi sappiamo quello che dite voi e voi sapete quello che diciamo noi. Sì, siamo a compartimenti stagni. Il cazzo. Sì, perché praticamente vi ricordate quel video della Federazione Industria Musicale Italiana dove dicevano che la pirateria uccideva la musica? Fimi? Miliardi persi e stronzate varie. Fimi? Esatto, Fimi. Beh, gli Anonymous hanno dato una risposta a tutto ciò, vero Cicillo? Non gli hanno defaccato. Sì, l'ennesima, diciamo, fuoriuscita degli Anonymous sulla rete. Non gli hanno defaccato il sito, no? Prego? Non gli hanno defaccato il sito. Hanno, come al solito, diciamo, fatto sentire la loro possente voce, ormai possente e onnipresente voce, sì. Ma c'è un cazzo di tappa bottiglie, maledizione. Come l'ha stappato, scusa, con i denti. Stavo dicendo, grande sì, caro. Hanno... E saluto Ferruccio, che lui. La cosa importante è che hanno fatto, forse più, diciamo, di aver attaccato il sito della Fimi nel giorno di Pasqua l'hanno fatto. E lo rimarcano, questa cosa è importante. Quando Cristo risorge. Quando no. E come no? Queste sono le leggende che metropolitane. Ma tu che sei un gran fedele bigotto lo sai. Beh, voglio dire. Tu sei un fedele bigotto, diciamo, lo sai. Questo attacco portato al sito della Fimi è stato rivendicato dagli Anonymous. Le motivazioni sono tante. Si parla del fatto che. Ma che hanno fatto questi Anonymous? Cioè, hanno carpito il database. Hanno messo online il database. Sì, carpito è un bellissimo termine. Sì, ma non c'entra un cazzo. Perché? È carpire. Deflorato. Sì, sì, già è più bello. Hanno deflorato la password del database. Esponendolo al pubblico su pasta e bean. Capì? È un po' come se il tipo, dopo aver stuprato Janis Joplin, gli pigliasse i reni da là proprio e li mettesse sulla finestra. Posso andare in silenzio stampa dopo questo? No, mi prego. No. Ho paura di stare al fianco di questi. Vai. Dici quello che stavo dicendo, dire. Le motivazioni che hanno portato, diciamo, a questa azione degli Anonymous. Sicuramente. Non so perché ridi in questo modo. Perché mi è venuto in mente il nome di questa trasmissione. The Flower. Ovviamente c'è quella di The Flower, vabbè. The è scritto D E. Ovviamente si parla di quella che è il costo dei CD, sicuramente spropositato rispetto a quello che poi effettivamente vale questa musica. Anche perché la maggior parte di quello che diciamo una grossa quota parte va alle case discografiche e ben poco agli artisti. Stessa cosa per quanto riguarda il download a pagamento della musica. Guardi negli occhi, e questa è una delle prime motivazioni. Non sto guardando te, sto guardando il termosifone. Ci tengo a precisarlo. Interessante di Lorenzo. Invece no. Ovviamente poi si parla di motivazioni più umane, come quelle delle morti sempre più recenti degli operai, probabilmente strasfruttati e sottopagati, che muoiono durante l'allestimento delle impalcature e scenografie dei vari concerti. Assunti in nero, perché la FIMI fa tanto la cosa della legalità, ma poi sappiamo che anche dietro la CIA ci sono degli intrallazzi non indifferenti. Sì, e quindi diciamo che, come al solito, le motivazioni che vengono manifeste agli Anonymous sono sempre state, ma si stanno, diciamo, come no. E vabbè, che cazzo, dai, cioè alla fine si sono sempre espressi a favore di quelle che sono le libertà sia digitali che sicuramente anche politiche e sociali delle varie persone coinvolte. Ebbene, dopo questo breve flash su quello che è stata l'ennesima incursione degli Anonymous, abbiamo una notizia divertentissima che ci presenterà il nostro caro Garulfo. Non vedo l'ora. Riguarda un sito davvero fantastico. No, il progetto è abbastanza serio in realtà. Sono messi là qualcuno. Ha creato questo splendido blog che praticamente farà, che tutti quanti penso possano capire, no? Uno appena lo vede, prende e si ammazza le risate, vero? Tantissime risate. Sì, praticamente. Di che stai parlando? Di movieascode.net. Spettacolare. Ci ha passato gli ultimi due giorni. Esatto, fa questo effetto, diciamo, perché praticamente sono la traduzione codificata dei film. Diciamo che se siete dei nerd e vi scoccia passare due ore a vedere un film, potete leggervi qualche riga di codice e ugualmente avere una giusta idea della numerosi cicli, film. Della serie Luca Bruno ha capito tutto. Luca Bruno forse ancora non ci è capitato, perché sennò i suoi programmi compilavano e si vedeva davvero il film. In questo caso invece per il momento abbiamo giusto degli inserti. Forza Luca Bruno, per che ogni ti podiamo più forte. Come io vorrei dare i miei i più carini, tipo vi presento i miei CD punto punto. Risate. Maggio folle in velocità di gente che si ride nelle macchine ascoltando Radio Ciroma. Della serie chi cazzo stanno dicendo, sei minchione. Oh, ne avevamo fatto un'altra. The Big Sleep. The Big Sleep. Che è Sleep 31 55 69 08 80 00. Diamo anche i credits del caro Amintore Fanfani. Come è sempre suo il lungo addio, che è Wild True Do Echo Goodbye Done. Oppure voglio Forrest Gump, Public Class Forest, Public Void Run. E questo Wild True. Immagino un Wild True sotto là. Torna a casa Alessi, voglio CD Tilde, voglio, bellissimo. Bellissimo, sì, CD Tilde che ti porta nella home directory del loser. E diciamo che non vi vogliamo svelare la trama, in questo caso il codice, però andate a guardare anche Kill Bill fatto da Matteo Croce. Ah, il nostro mitico Technorever, che il nostro mitico fondatore, sì, diciamolo. Sì, abbiamo qualche dicesimo. È proprio... Mi si è avviato uno shell così da solo. Te lo meriti. Bene, e quindi l'altra notizia importante riguardava il mate, questa bellissima bevanda argentina che mi hanno fatto provare e che attivizza, è tipo un caffè. Erba. L'erba mate. L'erba di solito viene cucinata in un attrezzo di metallo, viene fatto questo infuso che si chiama bombiglia o bomba. Oh. E si riempie di erba mate, è bellissimo. Perché dopo che lo bevete diventate attivi come Garulf. Io l'ho assaggiato, magari. No, il mate. Forse lo vendevano al mercatino, è questo di là. Non sbaglio, dici, la bevenda di mate. Magari un surrogato. Sì, esattamente, anche se forse in realtà là vendo il mate cocido, che praticamente sarebbe la bustina di mate. No, quella per fare gli infusi. La bevanda, proprio. Ah, proprio la bevanda. Tipo il lattina. No, era il guaranà, scusatemi. Quello era guaranito. Il mate non so cosa sia. Comunque da anche provare. La nostra gazzosa al caffè riscuote successo. Io non l'abbandonerei comunque mai. Non dite che sono legata alle origini, però ha già fatto un grande successo nel troppo gazzosa al caffè e poco cervello. Che comunque, come ricorda Scrizzi Ono Sendai. Cosa ricorda? Il troppo gazzoso al caffè. Sì, il grandissimo meeting che annualmente si tiene a Cosenza. Meeting annualmente a Cosenza, a Verde Binario, dove stiamo per andare e dove viene solo asbesto, diciamo, di solito. Sì, grandissimo asbesto. Però dove potete trovare tanti tipi di bevande gazzose al caffè. Sì, io sto leggendo il codice di Kill Bill, è fantastico. Also known as frappè. Io sto leggendo il codice di Kill Bill fatto da Matteo Croce ed è fantastico, semplicemente fantastico. Salutiamo Matteo di nuovo e direi che sia... possa essere ora di passare al prossimo pezzo. Oh no, Cicci. Chi stai cacciando tu? Dai microfoni? Cioè, allora, guarda, ti spiego una cosa. Questo è il vetro, la regia è da qua. Lo e so, della... purtroppo lo so. Beh, ce l'avete voi il mixer. Abbiamo i mezzi di produzione della musica. Hai il mixer dalla parte del manico. Esatto, però io dico il microfono che deflora. Siccome sono le 8:15... Direi prima. Ah, prima il cantante e poi chiudiamo con lo zio. Mettiamola di deflorare Barbie. Che schifo. Siamo mica qui a deflorare le bambole. Gli dirò deflorare per 20 giorni di fila, voglio, è bellissimo. Che fai stasera? Defloriamo un po' assieme. Comunque. A parte gli annunci sessuali di Garulf, il prossimo pezzo è di Robin Ford, quello della massima, l'immenso. Sono scoppiate. Palla di cannone diciamo Cannonball Shuffle. Cannonball una Shuffle. Palla di cannoni mischiati. Per rimanere in tema con mate. Col decotto. Dai. E questa la dedichiamo al collettivo degli orsetti in Technicolor. We'll be right back. è stupido. Chissà come in anno sa animare. Sono il tuo pezzo gnappo. Varie interferenze durante le canzoni, ragazzi, non siamo noi. Ma sì, sì. E questo era il deploratore Robert. Robert Lorenzo, ricordaci chi siamo. Che è una crisi di identità. Dove andiamo? Io sono Lorenzo. E tutti Lorenzo noi Bru- siamo in... siamo i Mozilla Bros incredibili su 105.7 a Radio Ciroma. E in replica anche su Radio Transizione di Fase ogni lunedì alle 20. È una miseria. È su cosa? Su Fuori Onda Radio? Ma non l'ascolta nessuno. Vabbè, però lo dobbiamo ricordare. Fatta Ciccillo, questo gli va dato merito. Non è vero. Ciccillo è vero, perché il martedì alle 15.30, quando siamo in replica, Ciccillo è con noi a giocare a Age of Empires. E ammettilo, Ciccillo, dai, sul Windows. E i nostri contatti sono, appunto, i nostri contatti sono il sito dove volevamo arrivare, www.mozillabros.com, oppure il sito della radio interno, ciroma.org, oppure se volete chiamarci siamo al 094 28 250. Siamo su Twitter col nome Mozilla Bros. E poi siamo anche in giro vagando in questo mondo. Cosa, e chiunque ci voglia fermare per strada e parlarci, noi siamo ben accetti, risponderemo con un abbraccio. E domani c'è la festa di compleanno in P2 alle 10. Se capitate alle 10 domani di Garulf e pure di un sacco di altre persone, 40C. Il codice di Prince of Persia è finalmente online su GitHub per chi vuole compilarselo e farlo girare su un emulatore di Apple 2. Su un Apple 2 è culo. Però il primo Prince of Persia, cioè, minchia, io mi ricordo The Original One, solo 2D. Come unico e solo è il cantante che sta per venire. Ma prima cantante. Volevo salutare una mia carissima amica. Se ci sta ascoltando, non lo so. Non è vero, perché stai zitto, non vale. Si chiama Maria. Ciao Maria. Ciao Maria. È la Maria. No, e invece no. Ti sbagli, non sendai. Maria. Ciao Maria. E adesso credo sia ora del cantante. E buonasera. The singer. Credibile. Siete collegati alla radio. Prima vedete con una canzone. Cosa? Per il compleanno di Mark e poi la mia. Tanti auguri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bravo, tanti auguri, bravo. Col vocalizzo. È uno dei regali proprio più belli che... E io l'ho ricevuto prima di te. In italiano. Buonasera, siete collegati di nuovo alla radio. Vedete con un'altra canzone. Caso mai ve lo foste scordato. Abbiamo il disco registrato. Vi ricordate per caso in Nirvana che vi dico? Come no, compa? Questo. Allora, love the celos. I will lost do. A che vuole? Vuole l'era se vostro. Anche vuole. Vuole osdo. Vuole l'era. Vuole se osdo. A che vuole? Vuole osdo. La che vuole. Vuole l'era osdo. A che vuole? Vuole follo, a che vuole, leve dalle se osdo, a che vuole, vuole osdo. Vi posso dedicare una canzone in italiano o no? E l'hai già fatto con tanti auguri, io dico che... Decisamente in inglese. Quella in inglese andava più che bene così. Dobbiamo chiudere anche perché dobbiamo scappare a Verde Binario, no? I Giardini di Mars. Vai, cantante. Il cantante vai. I Giardini di Mars. Però rompenza, vai. Inarrestabile. E un Bolungate, non va niente. Vabbè, la tagliamo, dai, la taglia, spugniamo. Taglia, no? Taglia, fai più corta. I Giardini di Mars si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco ad un tratto dicesti tu muori, ma se io ti son certa che io ne verrò fuori, ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciando trice di ieri. E che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più. E ho nell'anima, in fondo all'anima, cieli immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Buona serata. Bravissimo. È il grandissimo cantante, questi sono i Mozilla Bros. Potete trovare il cantante solo sui Mozilla Bros. È una nostra esclusiva e salutiamo tutti. Ci diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle 7:20. Visto che 7 qualcosa, sempre tardi. 7X su Radio Cirama 105.7 su www.mozillabros. Perché va lo streaming incredibile. Transizione di fase lunedì 20. Sì, vabbè, ma in diretta siamo qui. Eccetera. E vi lasciamo con l'ultimo pezzaccio che voglio sperare sia proprio quello. È il grandissimo sarà vecchio quello? No, Cicillo, metti il 7. Il 7, sì, quello lì. Ah, esatto, non lo conosco questo. Vi lasciamo con un pezzo che non conosce nessuno. Sarà chi sarà è mai. Proprio Leila di Derek and the Dominos, i Mozilla Bros. A presto. Non lo conosco, mi spiace. Eric Dominus, Eric Clapton. Che ricchionata. e vogliamo fare un saluto speciale a tutti quelli che ci ascoltano, a Pietro, Michele e ai nerd in generale. Ottimi Ringo, alti laghi. Poppe. Fap, fap, fap. Poppe. Porco. Deliri metafisici. Da lì conosciuto come Nida. Lei le ha dedicato a tutte le ragazze che ci ascoltano.